Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Questa non è la mia storia, ma la storia di Rabiola S, cavalla baia olandese del 1998, piovuta nella nostra vita nel 2008, quando la comprai per mia figlia Giulia, che è la vera grande amazzone della famiglia. Sono Fabrizio, vivo a Mestre, ho 56 anni e faccio il commercialista. Il mio amico Alessandro ha un cane che si chiama Giorgio e vive in una casa di ringhiera di Milano. Non so se conoscete le case di ringhiera di Milano, però sono delle case sostanzialmente con dei ballatoi che portano ai vari ingressi degli appartamenti. Nell'appartamento prima del suo ci abita una signora che ha un criceto, è un piccolo criceto che tiene sempre sul ballatoio in una gabbia. Un giorno, mentre lui è a casa, il suo cane, Giorgio, che è un retriever, arriva a casa con il criceto in bocca. E il criceto è morto ed è tutto sporco di terra. Lui allora non sa più che cosa fare, lo prende, lo lava, gli fa lo shampoo, lo fona e lo asciuga. È tutto bello gonfio a questo punto, il criceto, lui lo rimette nella gabbietta. Entra in casa, lascia il cane, va al lavoro, torna la sera, entra nel cortile e c'è l'ambulanza, e sull'ambulanza c'è la signora, la proprietaria del criceto, a cui un tizio dell'ambulanza sta sventagliando per farle aria. Lei è proprio sdraiata sulla barella. Lui arriva e capisce che c'è qualcosa che non va, fino a che arriva la vicina di casa e gli dice: hai saputo cosa è successo alla signora? E lui dice: no, il suo criceto, te lo ricordi? E lui dice: sì, certo che me lo ricordo, sai, ieri era morto e lei l'aveva seppellito nell'aiuola in mezzo al cortile. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, questo programma si chiama Voi siete qui. La storia che avete appena sentito non è la storia che racconteremo oggi, è una storia che in realtà gira da un po' di tempo e che mi è stata raccontata da un amico a cui l'ha raccontata un amico. Non sappiamo e nessuno sa se questa storia è vera, però ci piace semplicemente ogni tanto raccontarla. La storia che vi ho raccontato è esattamente il contrario delle storie che invece raccontiamo tutti i giorni a Voi siete qui. Questo è un programma in cui noi raccontiamo storie vere o presunte tali, nel senso che chiediamo a tutti gli ascoltatori di inviarci una piccola storia, una piccola o grande storia, un episodio della loro vita che racconti qualcosa di loro. Un episodio dell'infanzia, un episodio accaduto l'altro ieri e che parli di qualsiasi cosa, parli di amore, parli di vacanze, parli di amicizia, parli di lavoro, oppure parli di animali, esattamente come succede per la puntata di oggi. 349-238-6666 se volete scrivere messaggi in diretta, altrimenti andate sul nostro sito che è Voi siete qui, il nostro profilo Facebook, Voi siete qui Radio 24, oppure il profilo Twitter che è Voi siete qui R24. Il mio è semplicemente invece Matteo Caccia. Buona Pasquetta a tutti, ovviamente vi immagino in macchina verso luoghi di vacanza a mangiare frittate, oppure a mangiare salsicce, oppure a mangiare qualunque cosa. Vi immagino comunque in vacanza e me l'auguro per voi, per voi e per quelli che vi stanno vicino. Se però avete mai, come è successo a Fabrizio, che parla di una cavalla per l'esattezza oggi raccontiamo la storia di una cavalla, come avete sentito in apertura, se vi è mai successo di recuperare un animale, non come al cane Giorgio, al cane di Alessandro, ma di recuperarlo nel senso di prenderlo in pessime condizioni e dargli una vita buona e sana da vivere, oggi è la puntata per voi. Vi ripeto, 349-238-6666. È già arrivato in questa mattina un messaggio sul nostro profilo Facebook, Voi siete qui Radio 24, di Giuliano, che dice: sono stato volontario di Greenpeace per diversi anni e partecipai alla missione in Bretagna dopo il disastro della petroliera Erika. Ricordate Erika? Che anno era? Aspetta, adesso la cerco. Petroliera Erika. Erika. Erika è stata una petroliera monoscafo battente bandiera maltese, naufragata il 12 dicembre del 99 nel Golfo di Biscaglia. È stata una delle prime per cui ci si ricordava immagini di questi uccelli pieni di petrolio. È esattamente quello che scrive Giuliano. In Bretagna, dopo il disastro della petroliera Erika, che distrusse gran parte delle spiagge, ho salvato una ventina di gabbiani e varie altre specie di uccelli marini. Ecco, non dovete per forza essere un volontario di Greenpeace, basta davvero un criceto, un gatto, un cavallo, come nel caso di Fabrizio. 349-238-6666. Se avete voglia di inviarci una vostra storia, se non l'avete ancora fatto perché dovete trovare il coraggio, se è la prima volta che ci ascoltate e avete voglia di ricordare è di mettere giù, nero su bianco, una pagina e mezzo, massimo due, di un episodio che in qualche modo racconta di voi. Cercate di pensarci un po'. Passate questo pomeriggio mentre fate altro, mentre giocate a volano, non a volano, a badminton, oppure a pallavolo. Mia, lascia! Pensate, c'è un episodio che in qualche modo racconta qualcosa della vostra vita e ce lo inviate. Voi siete qui, @radio24.it. Antonello, ho salvato il cane Fulvio che viene sempre a trovarci in campagna. Non è di nessuno e nel paese è di tutti. Aveva un pelo rasta che gli ho lavato e ho tosato. Ho pagato un veterinario che lo mettesse in sesto e ora ogni volta che mi vede sembra che veda il Papa. Me lo immagino, un cane che sembra che veda il Papa, forse che sembra che veda San Francesco. 349-238-6666, è arrivato il momento di raccontare la storia di Fabrizio. Immaginate di essere amanti dei cavalli ed avere un cavallo che ha qualcosa che non va, che sembra stanco, sembra un po' affaticato. Insomma, voi con il vostro amore lo rimettete in sesto. Sono un cavaliere dilettante. Faccio un lavoro sedentario, sempre incollato a una sedia. Ma nel poco tempo libero sgobbo e sbuffo in sella ai cavalli, cimentandomi nella nobile arte del salto a ostacoli. Ho cominciato tardi, a 45 anni suonati, quindi definirmi cavaliere dilettante effettivamente è un po' troppo. Sono un amatore e in un'ipotetica equazione sto ai fratelli d'Inzeo come potrebbe stare a Cristiano Ronaldo il centravanti del dopolavoro ferroviario. Infatti gareggio nella categoria brevetti, col suo 1,15 m di altezza massima è tra le categorie più basse. Tuttavia, anche per non sminuirmi troppo, devo dire che per andare a saltare un ostacolo alto come il bancone di un bar in sella a un bestione di mezza tonnellata servono una buona dose di preparazione tecnica e mentale, di passione e di sangue freddo. Ho cominciato a montare a cavallo 12 anni fa, trascinato da mia figlia. Eravamo in vacanza vicino ad un maneggio, lei insisteva che voleva andare a vedere i cavalli e l'abbiamo accontentata e da lì è nata questa passione. Serve anche, come è ovvio, un bravo cavallo. E infatti questa non è la mia storia. Questa è la storia di Rabiola S, cavalla KVPN baia olandese del 1998. Piovuta nella nostra vita nel 2008, quando la comprai per mia figlia Giulia, che è la vera grande amazzone della famiglia. Rabiola è un po' sgraziata e ciabattona, e non risponde ai canoni di bellezza ed eleganza delle migliori linee di sangue, ma nei percorsi di salto ostacoli è una leonessa. Forte, generosa, equilibrata, grande cuore e paura di niente. E infatti con lei mia figlia per 2 anni fa buoni risultati, arrivando addirittura a piazzarsi in un concorso internazionale. Ma come tutte le cose belle dura poco, nemmeno 2 anni e la cavalla comincia a deperire, perde impulso, mangia poco, è svogliata, perde tono muscolare. Il verdetto del veterinario è ferale, gravi problemi a un posteriori, a soli 13 anni non potrà più saltare. Meglio dimenticarsela e metterla a Prato a fare la pensionata baby. Vendo il mio cavallo, un grigione che avevo da pochi mesi, per comprarne uno nuovo a mia figlia. E io mi tengo lei, l'ex campionessa diventata inutile. Quasi estate e me la porto al mare. Lì ci facciamo lunghe passeggiate in spiaggia e in pineta. Una volta finite le vacanze, torniamo al maneggio in città, dove non possiamo fare altro che lavorare in piano, cioè eseguire le classiche figure di maneggio dell'equitazione di base, senza esagerare e tantomeno saltare. Per rompere la monotonia, mi iscrivo a qualche concorso di dressage, che è una disciplina olimpica nella quale si eseguono figure obbligate in un rettangolo di 60 metri per 20. Lei, come ho detto, è un po' sgraziata e ciabattona e all'inizio i risultati sono poco incoraggianti. Piano piano però si adegua, lavora, ingaggia i posteriori e sento il suo impulso aumentare gradualmente, tanto che arriviamo a punteggi quasi decorosi. Ma ciò che più conta, si rinforza e le torna un sano appetito. anche grazie ad amorose cure e a un nuovo veterinario. Arriviamo così a metà maggio e un giorno, durante l'allenamento, l'istruttore mi dice: a fine mese ci sono i campionati regionali di salto ostacoli. Proviamo due salti, la vedo bella in forma. Io provo a protestare che non saltiamo da un anno, ma lui, già armeggiando con barriere e piglieri, mi zittisce: guarda, lei non ha certo disimparato, e tu? Beh, tu devi solo leggere i numeri degli ostacoli. È una cavalla, diciamo, a sangue freddo, molto buona, molto, soprattutto molto brava nel lavoro, nel suo lavoro. Anche se, insomma, c'ha il suo caratterino pure lei da brava femmina. La prova va bene, quindi mi iscrivo alla categoria Criterium Brevetti Senior. Ovviamente non ho nessuna velleità e vedo la cosa solo come un test per capire se la viola è migliorata oppure no. Il campionato si svolge in 3 giornate. La prima è un venerdì lavorativo. Riesco miracolosamente a incastrare la gara tra 2 impegni di lavoro. Arrivo trafelato, sello e mi presento in campo. Pasticcio un po', tanto che vengo richiamato dalla giuria, che però mi lascia proseguire facendomi ripetere alcuni salti. Scappo di corsa al lavoro e vengo a sapere il piazzamento da un SMS dell'istruttore. Complimenti, hai fatto il secondo miglior tempo. Il secondo giorno la gara è a fasi, una prima fase di 8 salti che, se viene superata senza penalità, dà diritto di proseguire nella seconda con altri 5 salti. Vale il tempo della seconda fase. La viola parte con un buon galoppo, scavalcando senza difficoltà i primi 8 salti. In seconda fase prova ad aprire un po' il gas e lei sembra non aspettare altro. Vola sugli ostacoli e gira stretto. Siamo primi nella categoria e primi in classifica generale. Comincio a pensare di essere dentro a un film. Il terzo e ultimo giorno la gara è a barrage. C'è un percorso base di 10 salti che superiamo di slancio, acquisendo il diritto ad accedere al barrage, che è una seconda manche su 7 ostacoli leggermente alzati. Vince chi fa il miglior tempo. Anche qui pasticcio su un oxer, ma agganciamo ugualmente il secondo posto nella categoria e il primo nella classifica generale delle 3 giornate di campionato. È fatta. Abbiamo vinto. Anzi, ha vinto. La cavalla inutile, la cavalla finita, la baby pensionata è stata la migliore di tutti, la più brava. E questo grazie alle mie cure, al mio amore, al lavoro del mio istruttore e al mio. È il giorno più bello della mia vita sportiva. Segue premiazione, giro d'onore e rituale volo in riviera, preso di peso dagli amici e raffica di gavettone in scuderia. Giacca e stivali da gara dopo questi festeggiamenti saranno da buttare. Ma chi se ne frega? Facile che una cosa così non mi succeda più, ma mi resta una foto per i nipotini, dove col miglior galoppo, col miglior assetto e col capo al cielo, Raviola ed io salutiamo il pubblico nel giro d'onore, come i grandi campioni. Do you remember the silver walks? You used to shiver and I used to talk. Then we went down to Times Square and ever since I've been hanging around there. So che oggi è un giorno di festa, quindi non siete davanti a un computer e sarete a mangiare frittate. Non so perché, ho la sensazione che a Pasquetta si mangino sempre frittate, ma tant'è. Se avete l'occasione, invece, andate a vedervi la foto che ci ha mandato Fabrizio, che trovate come al solito sul nostro sito radio24.it, alla pagina di Voi Siete Qui, perché sono loro due, sono lui e Raviola, la sua cavalla. È una foto bellissima, non mi pare vestito da gara, insomma pare più vestito da allenamento, eppure è elegantissimo. Sono elegantissimi sia lui che lei. Pronto Fabrizio? Sì, ciao. Ciao, buongiorno, come stai? Benissimo, benissimo. Ma perché dici che non è elegante? È bellissima invece il tuo cavallo. Sì, sì, ma per i criteri dell'equitazione classica, okay, eccetera, non ha quei requisiti di eleganza e di bellezza. Comunque è una bella cavalla, insomma, se la vedi è bella. Cioè, quanti anni ha adesso? 16. 16 anni ed è un'età buona per un cavallo. Sì, sì, ha ancora qualche anno di carriera davanti, naturalmente bisogna un pochino tenersela da conto, ecco. Mi ricordi quando succede tutto questo, tutta la prima vittoria, quando era, un anno fa, 2 anni fa? La mia unica, nel 2012, l'unica cosa importante che ho fatto in questo campo. Insomma, d'altra parte sono un dilettantissimo, quindi... Che cosa fai nella vita, Fabrizio? Faccio il commercialista. Ah, ok, quindi sostanzialmente per questo dicevi un lavoro sedentario, perché Sì, fai infatti, certo. numeri. Quanti clienti ha un commercialista che lavora tanto oggi? Ma no, dipende, perché ne puoi avere pochi grandi o tanti piccoli. O Io ne ho tanti tanti grandi, piccoli. tu ne hai tanti Ne piccoli. Quante ho persone lavorano tanti. con te invece, Fabrizio? Oh, siamo in 7 in studio. Ok, ed è tuo lo studio. Sì. Come vanno Adesso ho le anche mio figlio che è diventato un mio collega e quindi finalmente ho un collega di studio. cose? Aia, e come va a lavorare col figlio collega? Bene, bene, andiamo abbastanza d'accordo. Qu quanti anni ha lui? E lui ne ha 26. Ah, ok. E lui non va a cavallo, non è un No, cavaliere. no, è l'unico sano di mente della famiglia. Siamo io, mia moglie e mia figlia, i cavallerizzi. Lui ha altri, lui ama la montagna. Tua figlia, co come continua ad andare? Come va? Sì. Mia figlia è un po' bene, un po' male, un po' così così, come sempre con i cavalli, perché è uno sport che crea molte difficoltà e quindi no, non è che può andare sempre bene. Comunque, insomma, è brava, adesso ha un cavallo che le crea qualche problema, ma In che li senso? risolveremo. In che senso un cavallo può creare dei problemi? Cioè da tenere buono? No, no, nel senso che magari non è facile, soprattutto nel salto ostacoli, magari non è facilissimo da montare e quindi quando sei nel percorso può farti delle difese o delle reazioni o comunque non essere esattamente agli ordini e quindi ti mette un po' in difficoltà. Ecco, lì poi conta l'esperienza del cavaliere di riuscire a portarlo a fine percorso nel modo migliore. Senti, ma è sempre vera quella storia per cui il cavallo sente il cavaliere e capisce tutto, capisce se ha paura, capisce se lo sta guidando oppure Altro che come sali sopra, allora di norma come sali sopra il cavallo ti dà un voto e dice questo sa andare, questo me lo porto a spasso. E poi è un animale sensibilissimo, quindi se tu sei allegro, contento, triste, arrabbiato, lui capisce immediatamente tutto e si comporta di conseguenza ed è facile trasmettergli la tua negatività o la tua positività. Fabrizio, durante il racconto tu parli di compravendite di cavalli, no? Qu quanto costa più o meno un cavallo? Cavallo? Sì. Come un calciatore, dipende chi è, se Lionel Messi del Barcellona o Pinco Pallo del Ok, Barzantesca. un Pinco Pallo che uno usa per andare dopo il Ah, per lavoro. divertirsi, boh, con 5.000 euro ti viene un cavallo che ti ci puoi divertire, fare bellissime passeggiate, Però magari anche qualche è salto. come una Ferrari usata, no? Non costa tanto comprarla, costa mantenerla, giusto? Costa mantenerlo, certo, però ci sono anche maneggi, insomma, dove ovviamente ci sono quelli a 5 stelle molto cari, poi ci sono anche quelli un pochino più abbordabili che frequento io. Ogni quante volte vai a trovarla, cioè a trovarla, poi a Vado a cavalcarla? montare 3-4 volte alla settimana perché mia figlia monta tutti i giorni, mentre io e mia moglie ci alterniamo su questa rabbiola, un giorno io, un giorno lei, perché Ah, ma non ho quindi è il quel cavallo tempo. di tutte e due, c'è cioè anche di tua moglie. Sì. Okay. Senti, mi Anche lei spieghi? fa garette un pochino più basse delle mie, no, e anche lei è appassionatissima. Mi spieghi cosa dici? Quando dici che Rabiola S cavalla KVPN baia olandese, cos'è una sigla ovviamente che sta per cosa? Ok. Baio è il colore del cavallo. E KVPN è una sigla che vuol dire cavallo a sangue freddo della corona olandese, qualcosa del Ma a sangue genere. freddo perché è letteralmente al sangue freddo? Perché non è un cavallo che si scalda, tipo il puro sangue, è un Ah, cavallo che ok. tende molto a scaldarsi, a essere impetuoso, ecco, la mettiamo in questi termini. Il cavallo a sangue freddo si definisce un cavallo più tranquillo, meno impulsivo, meno Sì, è una focoso. questione di carattere, quindi, insomma. Ok, Sì. prima di salutarti, dimmi che tipo è Rabiola, quando la devi spiegare. Io che so, quando vado al parco con il cane, dico per farti stare tranquilli gli altri padroni, no, tranquilli, è solo un po' tamarro, però è bravo. Ah, è una bravissima cavalla, sa fare benissimo il suo mestiere, però come tutte le femmine ha anche il suo caratterino, quindi quando una cosa non la vuole fare diventa complicato fargliela fare, ma insomma nell'insieme è una cavalla fantastica. Fabrizio, ti ringrazio molto per la storia e per le immagini e anche un po' per questo breve tutorial sui cavalli che ci hai dato. In bocca al lupo. Grazie a te, Ciao, grazie a grazie. te altrettanto. Ciao, buona giornata. 349-238-6666. In questa giornata di Pasquetta parliamo di animali che avete recuperato, che avete rimesso in sesto, no? Un po' come Fabrizio ha fatto con Rabiola, che sembrava destinata a stare a prato, come diceva lui, e invece poi si è rimessa a vincere. Miriam scrive al 349-238-6666. Un tasso. Io un tasso non saprei manco come fare. Sarà una roba così il tasso, cioè più o meno. grosso così. È tipo un topo, esatto, quasi topiforme, come dice Paolino. Un tasso trovato nella canna fumaria della nostra casa di campagna. Sembrava morto, invece l'abbiamo lasciato al buio nella bambagia per un giorno intero, dandogli foglie e semi di girasole. Il terzo giorno era sparito. E quindi noi ci immaginiamo questo tasso libero nella campagna, vero Miriam? Insomma, speriamo. La bambagia, per bambagia intendiamo il cotone, la bambagia. E poi ancora Paola, un criceto salvato dalle grinfie dei figli del vicino. 349-238-6666. Chiudiamo anche oggi questa puntata al giorno di Pasquetta. Se era la prima volta che avete ascoltato il programma, potete scaricare i podcast sul sito di Radio 24 alla pagina di Voi Siete Qui, o altrimenti da iTunes in abbonamento gratuito, o altrimenti scaricatevi l'app di Radio 24 e trovate tutto. Se invece avete voglia di ascoltarci come fate sempre in diretta, siamo in diretta domani sempre alle 16. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, che sono Tiziano Bonini, Paolino Corleoni e Margherita Hina. Grazie soprattutto a Fabrizio e a Rabiola. La storia di oggi era la loro, e anche loro sono un punto rosso sulla mappa. Sono Stefano, vivo a due passi dal mare. La storia di domani è la mia e parla della piacevole illusione di saper fare qualcosa. Questa è la mia storia e io sono qui.